più che chiama gambi cicu gare 10 gambi scuola. Attenzione binario 10, ascoltate il dottor U che chiama gambi cicu. O abusivi, prima cosa abusivo sarai tu. Oh, ebbene, Nathalie, oggi mi è arrivato l'altro antennino, mi, con l'attacco SMA a maschio, mi. Però non lo so se prendere anche gli altri, mi, perché già me ne deve arrivare un altro, più quello a 30 cm comincia a costarmi, capito? Sono altri 10 euro. Mi sa che ti prendi quello da 14. Tanto, te l'ho detto, le stazionarie... I portatili lavorano con 3, 4, 5 stazionarie, quindi con 2 non è un problema. E ho visto che rende, perché arrivavo da sotto casa a Gio Maria come niente, arrivavo anche a Luca col portatile, a Luca Flipper. Cioè che lui era col portatile dentro casa e le arrivavo, quindi vedo che rende come antennino. E quindi quando capita che passo, te lo do. Tanto tu hai l'attacco, tu la radio è l'attacco maschio, no? Quindi ti serve lo spinotto femmina, mi pare. Mi sa che così adesso non me lo ricordo, vai, dovrei salire a vedere. Salire? Cosa c'è adesso? La casa a due piani? E al secondo piano sono. Gioia! Sono andato ad Auchan, ho preso fichi secchi, noci, poi è buono anche fare i fichi con la noce dentro, torrone e datteri, così abbiamo il panettone, ce l'abbiamo, il pandoro ce l'abbiamo, il torrone te l'ho detto, sì, torrone alle noci, molto più saporito di quello normale, l'abbiamo già provato. E così siamo quasi a posto, dai. Io non ho preso solo i picchi secchi, li volevo prendere, ma a mia moglie non li piacevano. Ehi, allora. C'erano i picchi secchi e non li ho presi. Sì, chiedi a mamma se le piacciono. E poco le piacciono. Qui con la noce dentro, mi noce e il fico secco assieme. Mamma mia, la morte sua. E anche a me piacciono, ma lì danno le piazzine e non ha pigliato. Andare così. Ha pigliato datteri, noccioline, di quei pistacchi, noci, tutta quella roba lì là. I datteri ha pigliato. Eia, però se ti piacevano una confezione piccolina, quelle tonde, per te la potevi anche prendere. Se ne mangi tu. Se le non piacciono, pazienza, anche ne mangi tu. Per non bisticciare è meglio lasciar perdere. Non lo sai quanto sono rompiballe le donne, Marco. Sì, in realtà lo so, non tutte, però. Sì, bisticciare adesso per due fichi secchi. Tu a quella non la conosci, è la minima cosa, tocca a. Adesso stavo bisticciando perché io stamattina ho preso tantissimo freddo, non mi sento bene, perché stavamo facendo le scale nuove di casa, no? Con un amico muratore. Cavolo, vuoi andare a fare questo il tuo compleanno? Vai, tu sei da andare che io non ho giù la gana a duia. Stavo per bisticciare per quello, perché volevo portarmi a forza. Eia. Eia, comunque un bericente non fa l'albero, Con la scusa che non ci sono bambini, ha chiesto a mamma e le amiche, nessuna ne fa quasi. Proprio non ne ha fatti nulla. Ma per la tradizione, ma poi è bello vedere l'albero illuminato, no? È come una lampada multicolore. Vabbè, comunque, io già l'ho fatto, ma l'ho fatto in 2 minuti poi, 2 minuti per modo di dire, no? E luci ce l'ha già. Già giù poi giù 3 festoni dorati e qualche palla. 8 palle gli ho messo. E va bene. appena passa il Natale prende lo non lo stinco, come si chiama, il protecchino, quello grasso, mi, da mettere nelle lenticchie. Mamma mia quanto mi piace. Non ne ho di quello, ogni anno lo stavo facendo quello lì con le lenticchie. E beh, il primo dell'anno ci vogliono le lenticchie, è di buon augurio. E poi mi piace il cotechino da matti. Ho provato anche lo stinco diciamo è poco grasso, più che altro è proprio carne vera e propria. Ed è buono lo stinco, però cioè quello proprio, il cotechino è la fine del mondo. Bello grasso, mi, che fa male alla salute. E infatti, e vabbè, si vivono le lenticchie, prima dell'anno vuol dire facciamo minestra e lenticchie. Aggiudicato. Sì, ma noi lo compriamo da Lidl, mi. Anche da Lidl ce l'hanno, ed è economico, non è di chi si negroni che costano un bel. Lo compriamo da Lidl o da Eurospin, ed è buonissimo, non ha niente da invidiare a quelli di marca, capito? Noi non ci facciamo fregare dalle marche. Oggi per esempio lasciamo vista una che aveva il cadello con tutto panettoni Bauli, quelli nomi soliti, come si chiama? Bauli, Motta, c'è gente fissata a me, dice che pensa che magari quelli Lidl sono cattivi, chissà con cosa li fanno, sono buonissimi, ce lo stiamo strafogando per colazione, capito? Un bicchiere di latte e una fetta di panettone. Vabbè, vuol dire che se hanno soldi da spendere, lasciaglieli spendere. Contenti loro, credono di avere un prodotto migliore, invece ma anche io ne ho preso uno in busta e me l'ho quasi mangiato, se non un pezzettino ce n'è di quell'imbusta così senza marca, senza nulla, cosa. A me me l'hanno regalato quello Bauli, ma magari era più buono quello che ho preso io in busta. Può darsi. Ricordati poi che tutta la roba di Lidl alimentare è fatta in Germania. In Germania non è che facciano cagate o roba schifosa, no? Ci mancherebbe. E oggi ero quasi tutto il giorno in giro. Mattina, pomeriggio e sera. Sono tornato anzi in fretta prima che aumentasse il traffico e ho trovato anche parcheggio. Meno male. Sì, anche io ho dovuto prendere la macchina stamattina a fare un favore a un'amica. E gli dovevo prendere il cherosene, sono andato e gliel'ho preso. E poi già l'ho trovato il parcheggio, meno male. Dovevo andare a farmi lucidare i fari, invece ero con questo muratore tutto il giorno, sono stato fino all'ora di pranzo. Sì. L'altra volta gli è andata male a quello di sotto, secondo lui la perdita era da me, no? Quindi sono venuti i moratori quel giorno, che era un martedì, hanno provato a buttare acqua e non era da me, capito? Arrivava perdita d'acqua e io non avevo buttato acqua. Dice no, non è qua, non è qua. E se ne sono andati, hanno aperto il muro esterno, capito? La facciata che va dietro hanno aperto, da me non hanno toccato nulla, capito, perché questo di sotto è sempre contento quando le perdite sono da te, per farti pindì. Vabbè, e tu un po' d'acqua, perché non gliela butti quando lui sta arrostendo? Quello si mette a voci, a strillare come una, non ti dico come. Capito, dici a Faradori, sempre a voci, è sempre a voci, ce l'ha sempre con qualcuno, o al telefono, o di persona, o a casa sua. Io mi chiedo come faccia quella donna a sopportarlo, è una santa. Ma tu non ce l'hai una pompa che gli facciamo un bello scherzo? Quando lui sta proprio arrostendo noi gli buttiamo cazzo roba di acqua con la pompa, poi quando esce il cazzo io ci sono io. Gli metto la pistola nei coglioni. Sì, ci aveva pensato mamma quando eravamo un po' ai fericotti. Solo che qua di sera quando accende non c'è mai abbastanza pressione dell'acqua e non ce la fa. Se fosse di mattina sì. Ma poi manca un po', cioè si è rosolito per forza. Non basta. Oh, ho pigliato anche una confezione piccola di gamberoni, mi. giusto un assaggino, 400 grammi, giusto un assaggio me. Ho detto, mangiano, che fai, la pasta ai ricci o pasta alle vongole, insomma, una pasta di mare, come secondo ci gustiamo questi gamberoni, pochi sono, ma sai perché? Io volevo la scatola da 800 grammi, però non l'ho trovata ad Auchan, sicuramente l'hanno messa in un altro posto, io ho trovato solo quelli o da Ventiero, che sono, mi pare, 2 kg, erano troppi, oppure, anche perché li pagavo io, oppure ho visto solo le scatolette da 400 grammi e l'ho pigliati, erano 5 euro e spiccioli. Quindi o ce li facciamo in verde o come voglio io sulla brace. Sulla brace io li vorrei, sono molto più buoni. Quello sì, a rischio sono una cosa. E se no, in verde che sono buoni lo stesso. Vai, vai. Vai, vai, puttanaro. E beh, sì. Sempre se ne mangiate, boh. Ah, io sì, io sì. Io mangio poco e spesso. E Natale noi abbiamo un mini barbecue. Non mettiamo un terrazzino, tanto fumo non è fatto. Tanto lo fumo, lo fa quello lì sotto, quindi. Ci sono le tende che comprano, problemi, non le dà. Mi scaldano un po' di braccia e ce li mettiamo lì i gamberoni. Li spennelliamo di olio, prezzemolo, senso, quelle... quello che ci vuole per dargli sapore. Gli diamo giusto una scottatina, che siano umidi, perché se li fai secchi poi non sono buoni, capito? Infatti, guarda, quel troioso di Stefano è arrivato, te lo immagini? Vai, vai, anche tu, Natri, vai, vai. Stalino! Mia, Gianni, doppio rutto. Allora, ciao Max. Ciao, già, stiamo parlando di mangimi natalizi, di roba da mangiare. Stai a dieta. Queste feste le odio perché mi sono in casa col pancione pieno. Ne avete poco. E oggi ho comprato qualcosina ad Auchan. Le solite cose, datteri, fichi secchi, noci, torrone, cos'altro ho preso? Boh, non me ne ricordo. I dossi. Roba che fa fare aria. Infatti sto sempre trodiando io, mattina, pomeriggio, sera e notte. Potrei mettermi un impianto a gas a casa, alimentato da me. Già cosa devi accendere un fiammifero? Come sei, già cosa da? Di accendere un fiammifero. Qua detto che c'è, sto facendo stanno. Attento alle esplosioni, mi Marco. Beh, adesso si dice trodiare, trodiare, non scorreggiare. Oh, yeah. Che scandalizzato, che rischio. Beh, brigantino va. Ui, Stefano. Aspetta, aspetta che c'è una stazione che vuole entrare, la state schiacciando. Chi è avanti? Franco, sei tu? Chi è che vuole entrare avanti? Vabbè, non voglio entrare, pazienza. E per forza, se parli così tu, così pornografico, è logico che la gente si spaventa e non entra. Porco. A voi. Natalino! Drogato! Quale questo genere più russo? Natalino! Oh, Gianni, da un euro sto andando! Che Marco si è bidato gli occhi, mamma mia! E guarda se ci sono io! A spendere sia i soldi! Quando ci sono, sì! Anch'io sono d'accordo con te, ma se non vi ne è poco da spendere, va! A buffo, paghi e pagherò! Quando non ce n'è più, viva Gesù! Non si compra niente, io non ne compro il babuffo, non mi piace! Mi non ti ferma lì, ci sono i cinesi. Beh, chi Stefano? Senti conta. Ho detto, c'è una di più roba, non fermarti dove ci sono i cinesi di vicino. Ehi, vabbè, anche vicino a casa tua ci sono, o no? Perché? Una volta a casa sono passato di notte, di lì, stavo andando a Cosmo, verso Canica, e ho visto questa tipa che si stava, che era nuda completamente, mettendosi le puntate vicino alla polizia. Portala da me, se ne trovi una portala da me, altro che cinese la faccio diventare nera, africana la faccio diventare. Quella era maschio, oh Gianni, quella era maschio. Io diciamo di notte no, le cinesi sono davanti alla, alla Piacenza. Ma quanto ci prenderanno le cinesi? Io non ci sono mai andato e non ne so perché. E poi mai, ci sono contrari a andare. Ma se tu hai visto l'altro giorno, hai visto la macchina con l'antenna lì, se fermo lì. È vero. Sarebbe una spiaggia, come è, guarda, ma almeno pure. Ehi, adesso non te ne negare, c'era la macchina con l'antenna che faceva su e giù, su e giù. Da lì ce la siamo scappati dall'uscita. Già ho visto le immagini già. Si dice che ci sono tutti i campi infusi, ma il tre macchine, è un casino, sono venuti a fare il pompino a trenare. Ehi, ai, ai. Bene, sono veramente contento. Adesso il sindaco vedrai che se già non l'ha fatto da domani, divieto. Divieto di sparare in tutta Sassari perché i cani si spaventano. Hai zitta tu. Ti faccio schiattare, anche i miei gatti ce la faranno addosso qua. E tu spari? Io ho sempre sparato, anche col divieto, cosa me ne affutti a me? Prima di tutto mi devono beccare. E io ti chiamo alla questura. Perché che metterti a quella esterna in casa ti metti alla parte cortile, ragazzi, bene. Come ha detto Stefano, vuoi che ti mandi la questura a casa tua? E io ti mando i carabinieri, hai capito, bello bello? Tyson non teme, puoi sparare quanto vuoi, non ha paura. Beh, i miei gatti un po' sì, come tuona lo stesso, si rifugiano sotto qualcosa, ma non niente di che, dai. Sparerò due o tre colpi, niente di te, non ne ho soldi da buttare in cartucce me. E così ti può venire anche l'infarto, lo sai? Sono cani che sono morti di infarto. Ehi, vabbè, ma lì devi buttare bombe. Ho petardoni che mi avanzano, chi le vuole? Io ne ho una scatola perché non sono adesso a sparare. Me li hanno regalati, li erano e li sono rimasti. Ma andate lì in macchina? No, sono a casa, purtroppo. E adesso stai scendendo me. No, perché magari ti sei spostato col microfono e ho pensato che le macchine. Adesso va meglio. Sono a casa lì, si è ventinti. Non mi sento bene, no, già. Ho preso freddo stamattina, stavamo riparando quegli scalini che c'erano rotti a casa. E quindi ero tutta la di pigliarli freddo. Poi, ma la sorte, adesso ti bisticheggia sempre, con l'età. Lo so, io pure ho la fascia che mi scalda la schiena dietro, adesso mi sta bruciando perché da ieri no, mi ha preso un colpo d'aria dietro, dove sono i reni, mi fa male. Questo che fa fascia, è scaldante, è come ti rivecica, ci. Devi dirla a me che ti avrei messo la mano, mi chiamano Gianni il Caldo. Gianni il Duro. Non ti fidare se di Gianni mio, sai che da voi invece di buniti la mano buni a qualcos'altro. Gianni il Caldo, hai. Gianni lo scappellato. Lo chiamavano Semiasse. A me prima di Natale non ci vediamo a berci qualcosa tutti quanti. Te l'ho detto anche io, a casa, non mi sei giunto, ma ci batte. Già, mi dispiace, no. Era tre giorni a Cagliari, la verità. Poi sono tornato ieri, oggi mi sento poco bene. Se mi sta meglio domani mi avvicino, dai. Ma sto scherzando, dai, quando vuoi. No, domani dopo le 6 io sono dall'ortopedico. Quindi fino alle 6 ci sono a casa comunque. E che dai, magari prima delle 6, che aspetta, no, così tardi non vado da nessuna parte. Ma vabbè, già ti chiamo prima comunque, già ti chiamo. Ehi, ehi, no problem, comunque sto scherzando, non ti abita mai. Andale, sì, possiamo fare una bicchierata prima di Natale, perché no? Dovevamo fare questa pizzata, ma è andata, beh, non ammara. La schizzata. E invece basta organizzarla, molto ci vuole. Senti, una massa di mucchi, cazzo, se ci organizziamo. L'avevamo detto che la facevamo e poi non so cosa c'è successo, ma non più detto nulla. Tanto io la volevo fare anche in un posto dove c'era il karaoke, che si cantava, che c'era musica dal vivo, e loro non ne vogliono di musica, non li piace. No, che lì cazzo ne viene sempre Curmai che vuole riempire il bicchiere. Chi è Curmai? Curmai è un cameriere che come finisci di, non ti fa finire, ma con il bere che subito si avvicina per prendere un'altra ordinazione. Ah, uscire. Comunque sai cos'è, perché non l'abbiamo organizzata? Un po' tutti incicciati, Natalino è un po' incicciato, Stefano mi dice un po' incicciato, Claudio non ne parliamo, era ancora più incicciato. Io mi salvo, io ancora non mi sono preso accidenti. Aspetta che mi tocco, aspetta che mi tocco, e tocco anche il ferro, ecco. Ma almeno anche una bevuta al bar, cosa ne so, un incontro al bar, una bevuta, prima di Natale, che ne so, ma non a stare chiusi in casa, uscire fuori in un bar. E infatti, ah, io pensavo incicciato nel senso che era di tutti, agitati sono andati a bere. No, ho capito, sì, anche quello va bene Marco, è giusto per stare un po' assieme, dai, per passare una mezza serata così, berci qualcosa, raccontarsi quattro cazzate come sempre. Ehi. Oh, Claudio, vabbè, oggi ancora non l'ho sentito. Claudio, ci sei? Ci sei? Oh, c'è sempre questa gola infiammata, non lo so. Sta pigliando antibiotico e quindi lo butta giù malamente. Ha sempre sonno, eccetera. Tu no invece, no? Gli antibiotici, l'era prescritto il dottore, un camion. No, vabbè, ma secondo me ci vuole, come fanno in Russia, quando siete raffreddati cosa prendete? Quindi vodka, quando siete ripresi vodka, sempre vodka, capito? Quella già ti scalda la gola, me. Ehi, Gianni. Dimmi. Però dimmi. E ho detto già, visto che vai da un euro, vai, controlla se ci sono le cuffie Bose, compramene un paio. Cuffie Bose? Le cuffie Bose ci sono, ma è un regalo per Natale. Bene, che tanto contiamo in bocco. A me mi piacciono le casse, tu mi regali le casse e tutto l'impianto, dai. Su il coso, il subwoofer, il Twitter, il midrange, tutto qua. Mi piacciono le casse della Bose, suonano bene. Ah, davvero? A me piacciono le cuffie della Bose, lo sentite, bellissime. Sentimino, c'è qualcuno sotto che sta chiamando, avanti che vuole entrare con la buonasera. Eia, chi è che ha detto la supposta? Chi è che vuole entrare avanti? Eia, soprattutto se è una supposta di mio duro. Ehi, non ti ho riconosciuto, chi sei? Ciao Valè, sei alto di segnale ma la radio non è la solita, cosa stai usando? Il K? Eia, ciao, ben sentito, no, io ti ho ascoltato anche da prima, però magari forse Antarino non ti sente, Gianni è in macchina, e non lo so chi ti sente, dai, riprendi Stefano. Sì, buonasera Valerio, arrivi benissimo qui a casa mia. Bene, un ottimo segnale per essere lì Alghero e ottima radio. A te ancora se mi hai ascoltato. L'hai ascoltato Stefano, Valerio? A me mi ascolti dalla macchina, Valerio, cambi. Attenzione Valerio, ci ascolti il doppio run che chiama, cambi. Ah, ascolta solo me. Sì, ma io sono in zona brutta. Aspetta se mi sposto. Lui sono cinesi. No, non sono i cinesi, sono dove c'è la Mercedes. Non la Mercedes, la Renault. Mi cosa mi serviva, porta miseria? Una manaietta dei cinesi, una manaietta per tagliare il torrone. E se no col coltello lo spacco, usare il coltello e il martello. Oh. Io ce l'ho fatta da me, lo sai. E dai, Gianni ha detto che HRM 4-5, Valerio, perciò non ascolti. Ma è strano che non ascolti Stefano, Stefano fa è fortissimo. Forse è zona d'ombra per Alghero, boh. No, oh, che non è zona d'ombra, Stefano. Stefano oggi è favorevole per Alghero. Possibile che arrivi più basso di me. Vabbè che sono più in alto, ma sono, come dire, sono penalizzato dai 50 metri di cavo, e sono 4 watt questi. 4 giù, poi dall'antenna ne usciranno 2. Forse. E io ho l'antenna girata, Marco. sono di taglio, perché lo prendo, per cui io sento a lui ma non mi sente a me. Ma perché? Cosa c'è? Di polo o direttiva? No, la Delta Loop, ce l'ho girata verso una nuova direzione, capito? Ah, Delta Loop, ah, ci ho preso, non mi ricordo bene qual è, però, vabbè, insomma, un po' direzionale così. Nathalie, novità dal computer lì, schede video, Nathalie è morto. Morto sarai tu, mi ero forzato, non sono morto. Ehi, novità del computer, hai ordinato niente? No, negativo, negativo, non mi sento bene, te l'ho detto. E se no, no, già, non parte tutta la situazione. È tutta smontata, pronta all'uso. Sì, aia. Va bene. Aspetta che sto vedendo un messaggio di WhatsApp. Me ne sono accorto solo adesso, aspetta. Luca, Luca del Monte, ci sei? No, che c'è? Già ne do più non è sceso, a comprarmi le cuffie. E allora, mi sono e beh, un regalo all'amico si può fare, no? Io gli ho chiesto le cuffie Bose. Magari di quelle wireless senza fili, bellissime, quant'è? Costano? No, Nathalie, quelle col filo voglio io, wireless non mi interessano. Quelle wireless devi collegarle a certi impianti o a certi punti dove c'è la wireless, io invece col filo, data che ti piace e stai andando. No, quanto costa? Non pare uno su 300 euro, non so neanche caro. Ma io sto scendendo dalla macchina, scendiamolo. Mi raccomando le cuffie. Io ho le Sennheiser. E c'ho anche le KG, però preferisco le Bose, troioso. Attenzione, Luca, Luca del Monte, c'è se l'ascolto, cambio. No. Non che? Non che se, cosa gli volevi a Luca del Monte? No, che mi ha mandato un messaggio per una cosa da acquistare. E l'ho letto tardi, proprio il cellulare non l'ho manco considerato oggi. L'ho tolto la tasca, ho visto che c'era un messaggio WhatsApp. WhatsApp! Un attimo, vendo subito, un secondo. Eia. Caro Natalino, appena passo ti do... Comunque Natalino, te lo ricorderai, no? Il portatile cos'ha? Un foro d'attacco femmina e l'attacco maschio. Io so che ha l'attacco maschio, però qui lo dico, qui lo nego. Allora, c'ha l'avvisatura interna ed è maschio sicuramente, sì. Perché l'antenna quando la avvisi, avvisa internamente all'apparato. Cioè, l'antenna, tu l'antenna, no, svitandola, cosa vedi? Che è femmina l'antenna? L'antenna è femmina, sì. C'ha lo spillo, ce l'ha dentro l'apparato. Sì, cioè il maschietto, il pirulino centrale ce l'ha nell'apparato. Sì, sì, e allora è la prima che mi è arrivata. Ok. Vedrò se ordinare quella da 30 cm, perché a me non serve Nathalie, e spendere 10 euro poi per un'antenna che non uso. Oh. Vediamo, dai. Infatti. Aspetta un attimo. Eccomi, eccomi, un attimino che a zero. Metto, ecco. Sì, ma mi ha risposto Luca. Mi ha risposto Luca ed è... Luca del Monte ed è in giro per negozi, sentiva tutta la gente, deve essere a piedi, me, a piedi, magari in via Italia, chi lo sa. Ha detto non fa entrare al baracchino, oh, non fa, se tu non entri, noi già ci siamo, non dico talcere ma quasi. Ieri per esempio non sono entrato, ero tutto il giorno sdraiato a letto, a te immagini. Cioè mi sono vestito, mi sono preparato, però sono rimasto a letto. Avevo freddo, non lo so. E così sono io, ho freddo, ma Gianni, dove sei arrivato? Gianni non c'è più, tutti chiuso hanno. Stefano si è allontanato. Caro Valerio, l'hai fatto l'albero di Natale? Ah, vabbè, sì, so, vabbè, siamo io e mamma, cioè bambini non ce n'è, però uno piccolino l'ho fatto, alto un metro e venti, dai, non di più, l'ho fatto proprio in 5 minuti, sai perché? Alle luci sue, non dovevo mettere le luci, azzuffarmi con i cavi, è un alberello che ha già le fibre ottiche, e fa molti colori, capito, alternati. Io ho messo 3 festoni, qualche palla e ho fatto l'albero, il puntale ho messo e ho fatto l'albero. Eia, eia, ma non che me ne freghi del Natale, cioè, nel senso spirituale, a me piace l'albero, l'abbiamo fatto da quando ero piccolino, l'abbiamo sempre fatto, capito? Presepio no, cosa mi rappresenta il presepio? Una favola, una storiella, eh? Mi sto spostando un attimo. Eia, no, il presepe no, sì, lo facevo quando ero bambino, me lo facevano, però l'albero di Natale, diciamo, è più ateo, è più di importazione, capito? Non c'entra molto col Natale nostro, per quello me lo preferisco, sono mezzo ateo, o meglio, sono dubbioso, ecco. Ehi, a parte che da festeggiare non ci sarebbe niente, ah? Vabbè, dai, chi ci è rimasto qua, dai? Sto parlando. Ehi, in compenso è andato Natalino e Gianni, spariti tutti e due. Ci sono, che sta dicendo? Ci sono! Millo! Già comprato! Ma sono arrivati i giochi! Marco è deluso! No, non sono arrivati! Comunque mi ha detto Marco che le cuffie Bose sono in offerta da 100 euro, quanto costano, Marco? 75! 55 invece che 100 euro. Cuffie Bose, ma non è possibile, già costa un sacco di soldi. No, si sbaglia tutto, io ho detto Bose. Ha detto di andare da 1 euro, così le vedi, così mi ha detto Marco. Va bene, d'accordo. Magari sono imitazioni, sono cuffie Bose. Bosa. Oh Gianni. Sì, cosa regali a Marco a Natale? Senti, gli stiamo regalando questa compilation di giochi per il coso, per la Huawei. Regalagli lo scooter, il ragazzo giochi. E cosa ti credi, compare di nocciolini? Ma Marco è lì a fianco. Certo, se ha detto, se poco fa quando ha detto tu, Dio, cosa ha detto, scorreggia, ha detto che scurrile. Marco, ascolta a me, fatti regalare la moto, fatti regalare lo scooter. Oh. Beh. Costa troppo, che costa 3.000 euro. Sì. Ancora vivo sei tu. Io sono qua sempre, non ti preoccupare, tu, sono vivo e vegeto. Non ne ho voglia di parlare. Non ci sono argomenti interessanti. No, la cosa sta bene, sta tutto bene. Alla sorella di Marco l'ho data la supposta, non ne ho più. Se non sono interessati gli argomenti, perché ascolti allora? Perché mi fate compagnia, capito? Io entra, fai da bravo. No, sto facendo cose. Sto facendo cose un po' più interessanti per il momento, dai. Cioè, sono qua comunque. Stefano, riprenditi. Ciao Spalliero, ciao. Ciao Stefani, ciao a tutti, comunque buonasera. Leia, ciao Claudio. Bene, vabbè, Natalino si è allontanato. Fatemele girare voi, dai. Bravo l'altra notte, Marco, c'erano interessanti discorsi. Ma la volta dei profilattici, di quale ciotteria là? Eia, vabbè, dai. Poi se qualcuno si analizza, peggio per lui. Hai fatto un forno calare l'altra notte. Eia, mi raccomando, compra il togliere a Marco, mi, che non mette incinta nessuna, mi. Grazie, non ti... Bisogna mantenere pure il figlio e... Capito, la ragazza e il figlio. Che assunto, fregatene, c'è la testa sulle spalle. Ah, già gli hai fatto un po' di educazione sessuale, sì. Non ha bisogno, non ha bisogno, oramai ci educano da su. Meglio così, meglio così. Pomponio, ci sei? Attenzione, Pomponio. A proposito dei preservativi, mi chiama Pomponio. Così ne dà uno alla sorella. Ehi, no, volevo... No, perché una volta con Pomponio nei suoi ragionamenti, non lo so, mi ha detto, prenditene una, mettila incinta. Che bella... Ah, che belle... Che bei propositi, no? E poi facciamo due code in una capanna. Intanto li sono abituati. Vabbè, lì sì. Pure la nipote, anziché pretendere le contromisure. Vabbè. No, no, no. Passa via. Altro che pigliarsi non a metterla incinta. Sì, e poi cambiamo di aria. Vai, vai. Vai, vai. Mi piace troppo come lo dice Stefano. Vai, vai, con disprezzo. Ma questa incarinata quando ce la facciamo? Sono tutti a dito a sedere. Claudio, dobbiamo fare una bevuta, un ritrovo al bar prima di Natale. Sei disponibile? Io vedo i soldi ma non bevo, non sto bevendo io. Vabbè che non ho mai bevuto, ma in questo periodo ancora meno perché sto ancora prendendo delle medicine. Prendo un caffè. No, infatti, non è che devi bere per forza, una cioccolata calda ti pigli, a voglia. Non è obbligato a bere alcolici, anzi a me piacerebbe più la cioccolata con la panna. Si va già così. Così non arrivo manco a casa da voi. No, perché così? Io sono abituato a bere, a mangiare, bere questi dolci, questa roba qua. Ma sai quanto è buona, me la sono presa l'altra volta al bar. Buonissima. Sì, vabbè, fatemi sapere quando, non c'è problema. Stefano, non lo so, vediamo. Natalino non si sente bene. Siete tutti incicciati, io sono l'unico che sto ancora in piedi. Natale Vittorio. Adesso si inciccia anche Gianni. Io ti ho detto che sto benissimo, non sono incicciato, sto benissimo. C'ho altre cose in questo periodo che sto facendo e quindi sono un po' più impegnato, dai. Ho capito, però, vabbè, aspettiamo un paio di giorni, vediamo un po', oggi è lunedì, vediamo magari martedì, no, mercoledì, giovedì, che punto siamo, come siamo di salute, ci possiamo vedere, insomma, un'oretta, non è che è stata una sera a sventire dentro il bar, giusto averci qualcosa per augurarci il Natale fra di noi, ma sempre che si possa fare e che coincida con i nostri impegni, sia familiari e non. Ci scambiamo anche i regali. Tu cosa vuoi, Stele? Cuffie Bose? Io voglio le cuffie Bose, quelle da 350 euro. Minchia, facendo colletta magari. Chi è? Chi è? Vabbè, non c'è nessuno. Gianni cosa vuole in regalo? Computer nuovo! No, ma quello ci sono io prima. No, un po' di salute magari, mi servirà un po' più di salute, capito? In generale, così la schiena, tutto. Voglio un po' di serenità e basta, tutto lì, mi basta. Spallino. Oh, dimmi se... Questa è la Medicento, com'è? Va bene, è tipo l'altra, non cambia niente, quasi niente, dai. I filtri a zero sono, tutto a zero, però nelle altre bande c'è una bomba, l'ho provata a 80 metri poco fa, esce forte. No, te l'ho detto, in banda laterale microfono eccezionale, in AM non è preamplificato, però se fai quel lavoro là fa molto meglio. Sì, lasciali a zero, in AM lasciali a zero i filtri. No, tutto, adesso anche nelle altre bande tutto da zero. Non c'è niente di... né compressore, nulla, zero completo. E la modulazione è ottima, ho fatto delle prove. E va bene, adesso rimetto quello normale che mi piace di più. Su che apparato si può dire? No, non si può dire. No, sono cose nostre. Sei troppo curioso. Sì, anch'io lo usavo senza... con le Medicento senza processore, senza niente. Va benissimo, spinge benissimo in modo laterale, non c'è bisogno di nulla. È come quello che ci abbiamo uguali, diciamo, dai. L'IC io lo uso con il microfono normale, l'SM20 non lo uso perché è già forte col microfono normale, quindi va bene così, capito? Sì, confermo, adesso sono passato al microfono normale. Sì, l'altro infatti è così, il microfono normale esce fortissimo. E io, mi piace usare quel microfonetto. Tutto qua. Va bene, ho recuperato un po' di manuali, diciamo, e sono a posto, ho fatto le mie prove, tutto a posto. No, va bene. Non problema, ottimo per la truppa. Non mi ricordo, vabbè, dai. Riprendi o Marco, fai girare tu che io sono in attesa, stavo scrivendo un'email, sono in attesa di risposta. Riprendi tu che sono al computer. Io c'è rientrato Natalino. Un attimo, sono al telefono, un secondo, un'ora. Gianni, forse c'è rimasto Gianni, dai. Vabbè, buon viaggio, dai. Spariti tutti. Beh, non c'è più nessuno. Si sono allontanati, dai. Claudio è in apparato. Stefano al telefono. Natalino non è rientrato. Io stavo scaldando il rancio. Stavo scaldando. Quindi fra un po' mangio, dai. È anche troppo tardi, caspita. Non me ne ero accorto dell'orario. Pranzo, il pranzo ti stai facendo? Sì, devo pranzare. Lo so che è un orario inusuale, però. Vabbè. Anche io questo periodo, Marco, non sto andando male. L'altro giorno ho mangiato alle 6 a pranzo. Non ti dico altro. Perché quando esco alle 3, trasportare taglio, cucinare, fare lavare i piatti, questo e quell'altro, si fa tardi. Lo so. Bene, un altro maledetto Natale sta per arrivare. Speriamo passi presto, che sia indolore la cosa. Ma poi già rientra, sì, che sto tornando a casa, a parlare da casa. Vabbè, io dovrò mangiare, ma penso che qualcuno rientri, dai. O Natalino o Stefano. Vabbè, dico penso, non rientra più nessuno. E tu devi mangiare, lui sa che non rientra più nessuno. Stefano, cosa stava facendo? Telefono. Poi Luca Del Monte amava risposta al messaggio WhatsApp ed era in giro per negozi, sentivo tutto il rumore della gente che parlava. Era in giro a negozi, dicevo cosa entra al baracchino, non vale la pena, vabbè. Però in PMR, è sempre in PMR Luca Del Monte, Però il baracchino non entra più, non si degna di entrare, no, vabbè. Scelta personale. Io lo faccio per voi. Invece si trova meglio là. Vabbè. No, io invece preferisco il baracchino. In PMR è ben poco sto entrando, solo per fare una battutina o salutare, eccetera. E il baracchino. Il baracchino è quello principale, il resto è solo di contorno. Bene. Oh, c'è un freddo qua. Ecco perché non mi sono messo la camicia felpata. Dai, già, io comincio ad andare, dai, tanto la roba sta scaldando. Mi devo coprire un po', perché se no mi viene davvero malanno. Se che dopo entra qualcuno, bene, se no pazienza, dai, io ti saluto già da adesso, ok? Ritieniti salutato, Gianni. Ciao anche a Marco. E ci sentiamo più tardi, salvo imprevisti, ok? Se no la prossima volta. Sì, dai Marco, ci sentiamo dopo allora. Io sto arrivando a casa adesso, mi metto tanto peso, l'ho portato già in giro, non devo scenderlo. E vado direttamente, metto direttamente il pigiamone, quindi non mi metto, perché qualcuno può stare anche in casa. Ciao. Ciao Giulio. Gianni, ci sei ancora? Ciao Giulio anche. Tutti morti, vabbè, dai, a dopo. E beh, spariti sì. Siete schiattati? Stefano, sei tu? Hola. No, nessuno. Tu nessuno sì. Eia. Oh, non lo so, non c'è più nessuno, non sono più entrati. Non ha più voglia la gente, ah. Non ha più voglia la gente. Pazienza, io me li vendo davvero quei baracchini, mi tengo solo i 3.009, i due 3.009 e poi. Non vendere niente, rompi piuttosto che si prenda. Ciao. Cosa stai vendendo? No, ufficialmente niente, allora l'intenzione c'è certe volte. Tanto guarda, sto usando sempre solo il 3.009. Quello omologato oppure l'altro, raramente. Gli altri non li uso mai, cioè l'Intec HR 5005, poi il CRT 9009 e il CRT 7009. Non li sto usando mai questi. Non c'è il tanto già, non... Chi li vuoi vedere? No. Se vuoi ti vendere i miei, io uso sempre questo, ma solo che c'è un problema, che se si rompe uno devi operare l'altro. Non puoi venderti gli apparecchi che tu magari al momento opportuno non ce li hai. Meglio. Poi qua non c'è mercato già, anche per vendere è un problema. Bisogna mettere su eBay. Vabbè, è troppo difficile fare i pacchi, una seccatura, andare alle poste, fare la fila, fare il pacco. Mamma di tutti. Se fossero vicini i corrieri di prenotare un invio, no, ma forse si può fare, però un invio per fare un pacco posticcio, poi loro vengono a casa, viene il corriere a ritirarlo, lo imbusta, mette l'etichetta e via, e fanno tutto loro, capito già? Io non ho intenzione adesso di vendere nulla per il momento. Sì, certe volte mi chiedo se davvero non c'è più il tanto, ha ragione allora Luca Del Monte andare in PMR, eccetera. Sembra che vada più quello che non è la 27. Chi è che vuole entrare? Chi è che ha fatto la Capri 2? No, niente, vai Gianfranco. Sì, prosegui, te li ho di ascolto, sto leggendo il materiale. Ehi, vabbè, ho mangiucchiato qualcosa, però questo è solo il primo, poi mangerò qualcos'altro. Uff, capito già, tutte spese inutili, ha ragione qualcuno a dire, inutile comprarne baracchini, basta uno, poi l'altro di ricambio, tipo l'altro 3.009, e boh. È inutile, è quello che preferisco in assoluto, in assoluto. E infatti. Oi, oi. Quindi poi Stefano non so se si è rientrato. Era in cucina, quindi si è chiamato, non l'ho sentito. Natalino non è rientrato, non... Claudio non ha voglia, quindi. Tutti sciancati, eh? Ho detto che sono qua, mi sto mandando i nemici, mi sto presentando le figlie per mattare, a pigliare il nome dello sciamatta Giuditto. Non è che ti stai scrivendo l'epitafio? Ah, così mi sto scrivendo, al gruppo pedofilo. Ma lo sai cos'è l'epitafio, sì? No, non lo so. L'epitafio è la scritta che si mette sulla bara, una scritta poetica. Ma tu? Allora, no, che non è fuori, mi sto mandando le mail, ancora non mi ha risposto questo se c'è posto. Ciao Gianfranco, sono qua, Marco, un attimino, aspetta, già riprendo subito, stavo aspettando quello fa, mi stavo ascoltando ma stavo scrivendo, non potevo mollare, capito? Ehi, ehi, io ho mangiato a metà, dai, sono andato a vedere, stavo tagliando un tappo di sughero per metterlo sul lambrusco, che una volta che li apri si dilatano e non c'è modo di chiuderlo. Adesso stavo tagliando, stavo adattando un tappo di sughero, Gianni, dici qualcosa? Allora, fatta è per Marco, sì, lo scooter li regali, nuovo però, meno usato. Ehi, la ti regalo il tuo che non ce la fai a pagarti l'assicurazione dell'UV. Ma mi sa che facciamo così. Sì, anche questo Natale non c'esce niente, dai, inutile, con la moto è destinata a stare in garage. Va bene, pazienza, non fa niente. D'altronde su quattro ruote è sempre più sicura la questione, dai. Quello è vero. Ma ora la guardate recuperata, scusa, però siamo a ferma. No, diciamo che è stato un passo più lungo della gamba, poi i soldi sono diminuiti molto. E va bene, pazienza, dai. Dai, fatemi fare questo lavoretto. E che lavoretto stai facendo? Sto adattando un tappo di sughero o una bottiglia. Che la stai lavorando. Avanti, Claudio. Ma poi già che mi ha risposto questa agenzia, un secondo, riprendi con Gianfranco. Avanti Gianfranco. E allora, questo Natale, preparati, stai. No, assolutamente. Io sono quello Babbo Natale le sparo, quindi se non ci venga Natale per me non è molto piacevole. No, come mai? Perché non sei credente? No, perché fino adesso mi ha portato una grande figa da un paio anni a questa parte, quindi se posso lo evito, non vedo l'ora che venga a gennaio. La Befana ti piace di più. Ma che a me è un po' di ricordi, di cose, i genitori che mancano, tutte queste cose, un po' di malumore me lo mette. Ma anche prima, cioè non è il nostro Natale di quando eravamo piccoli, un Natale di gente isterica che corre a fare acquisti, a fare questo, a fare quell'altro. Una volta era più umano, dai. Io mi ricordo che quando era Natale mia madre invitava anche che la signora che abitava di fronte a noi, che era sola e la vedova, se la invitava a giocare a tombola e veniva e ci sbarcava tutti, che se era una garrosa di prima qualità e rideva ogni volta che vinceva, sai quanto si divertiva con noi. Lui la inseriva con noi perché aveva i figli ma non la dicava il poveraccio, e la metteva insieme, la invitava anche alla cena di Natale, eccetera eccetera. No, la verità univa tutti i figli, capito, tutti quanti, poi molti loro, poi nella Gottosui. Ma infatti non c'è quella cosa che c'era prima, adesso è tutto così, vabbè. Però perché siamo molto vecchi. Ma prima mi ricordo che nel mio palazzo c'era una persona solo che aveva il televisore e andavano tutti da lì a guardarlo, come il cinema, lei ci invitava, guardate che c'è un bel film stanotte, ci guardiamo tutti i televisori, metteva il braciere con quella cosa di legno, non so come si chiama, quella ciambella del legno, lo metteva lì sopra, tutti mettevano i piedi lì e stavano tutti quanti in casa a guardare il televisore, tipo cinema, così. Ruragiri. Sì, c'era una vacca, guarda, era una cosa allucinante, c'era il televisore e invitava tutto il palazzo. Andavano tutti tipo in cinema, mettevano le sedie, si portavano le sedie a casa sua, era sempre in compagnia, lei la vedova, ma era sempre in compagnia, perché era socievole e la volevano bene tutti. E come Marco, vedi Marco, potresti fare così, ma Marco è sociale. Marco, poi si mette il problema che deve portare la sedia su, eccetera, eccetera. Allora, che sporcano la casa col braciere, fare la legna, capito? Carbone, poi non trova posteggio. Vabbè, cioè così, da. Comunque prima erano altri tempi e sì, è vero, il Natale era diverso, si stava farti compagnia, nocciurine, mandarini, tutte le bugie di mandarini senza la banca. Oh. Sembra che Marco dici, non adesso niente. Stavo completando sta cosa, se no poi no. Non trovavo un posto, mia figlia, quest'anno vuole andare fuori, andiamo, non problema, andiamo. Fare una settimana. Andiamo a fare una settimana. Eia, la 23 alla 31, c'è un pacchetto. Lì a Cortina andiamo a fare la settimana bianca. Allora vedete, dopo il gessato, sicuramente. Ehi, vabbè, già imparano tutti. Anche mia sorella era andata e si è rotto un braccio e se ne sono dovuti tornare. Se ne danno il gessato. La prima volta qui già imparato. Lui sono ricappato io. Sono tornato a Fondi, tutti in greffa. Lo stesso mi aveva fratturato il polso. Lui. Vabbè, comunque andiamo, c'è questo albergo. Infatti adesso voglio un attimo andare a fare il bonifico della prenotazione. Mi ha accettato la prenotazione, però entro domani devo fare il bonifico di prenotazione. Domani mattina vado, dopo domani sera ho portato la macchina a Roberto e mi deve cambiare il parato, che era 600. E boh, è muovato. E va bene, a me la stacchi la spina un po' là. Festeggi la pensione. E già, stacco un po' la spina perché c'è qualche soldo in più, sennò me ne rimasto a casa. Però se non ne approfitti adesso poi non ci vai, capito? E infatti, andiamo io, andiamo di mia figlia, poi ci mio fratello con la moglie, il cognato di mio fratello, siamo una 7-8. Ma che ragazzo è tua figlia qui? Mario sì, è bello. Vabbè, vedete, siete in greffa, state bene. Sì, no. Già, sai come te, a mani a bitti tutta la via, a mani a bitti tutta la via. E io sinceramente non è che non sono più quello di prima, però, come hai detto tu, stacchi un po' la spina, sei fu questi 4 giorni lavorativi, dai. Vabbè. Ok, avanti Gianfra, sta piovendo, porta sul cane, sta piovigilando. Ti immaginaci, non era accorto dalla finestra, non si vede un cacchio. Meno male ero qua sotto il giardino, quella fine, quindi sono gli alberi un po' a fungo. Ha fatto tutto e subito se ne è voluto alzare. Vai già cucardomi, vai Gianfra. Me la vendevi a me, me l'avrei messa a posto io, sarei venuto con Omar col furgone, l'avrei caricata dentro, portata da lui, messa tutta in ordine, a posto, e poi avrei fatto l'assicurazione e l'avrei data a mia figlia per l'estate, capito? Che 125, quella per lei va bene, la mia non la può guidare, la prende ma non la può guidare. Ma quella spero sempre di mettere in moto, dai. Se ti dico che sto mangiando, ci crederesti? Beh, non è una cosa che non va bene a quest'ora per te. Sono le 8:15. Quindi già può essere che stai mangiando, là. Gianni, senti tre cose, detto, secondo te, mangiando sta. Sì, sta pranzando. Dopo me devo fare la pasta, la crema di funghica. Speriamo che sia buona. Buona, quella in barattolo l'hai preso? La crema, sì, la crema di funghi, sì, quella della Buitoni. E poi mi faccio la pasta con la crema di funghi. Ma non la sto più mangiando di primo. A lui che qualche giorno me la mangi un po' di pasta. Per la madrugna di cucinarmi un po' di gusto, perché se no, quando ci sono loro, quando c'è gente, mio nipote, mio figlio, mia figlia, allora cucino e faccio robe particolari, capito? Ravioli, pasta al forno, ecco. Ma se stessa calatura non mi piace. E vabbè, perché la so, però fai pennette, non voglio fare pennette con queste creme così. C'è anche quella funghi e noci, mi pare, molto buona. Quella oggi è buona, fai però pennette. Mezze penne, pennette, capito? Non fare pasta lunga. Più buona. È più buona, se c'è orecchiette, pasta corta, fai, capito? Sì, mezze penne io uso. E mezze penne, e pasta lunga poco, uso solo per fare la carbonara, ma uso gli spaghetti per fare la carbonara. Abbiamo fatto la prova l'altro giorno, ho fatto l'aria, ma ti dico, la carbonara, però anziché spaghetti ha messo le fettuccine quelle strette, userei della già. Cosa ci ha messo di speciale? C'è gente che ci mette le cipolle nel soffritto che fa con la pancetta affumicata, ci mette le cipolle? Certo che sì, in aria sì, c'è l'alberghiero, lo fanno, sì sì, soffritto con la pancetta, cipolla, il peppe nero, capito? Molto buono, molto buono la cipolla, già tagliata a pezzettini piccoli piccoli, è molto buono. No, io cipolla se no adesso non ne ho messo. Io soffrigo la pancetta affumicata, da parte sbatto un torlo, d'uovo con un torlo, cioè metto due uova ma uno li tolgo l'albume. Poi le sbatto, li metto il formaggio in mezzo, il formaggio grattugiato e via. E poi quando è pronta la pasta con il tutto ed è buona così. Però la provo le cipolle, perché l'ho sentito dire, la fa il suocero di Manuela. Così con le cipolle, ma ecco, papà prova con le cipolle, che il padre di Samuele mette le cipolle ed è molto buono. Sì, sì, molti la mettono anche nel ristorante, la mettono. Buona, buona già, mettila, non molto, non esagerare, però mettila appena già. Quando stai facendo soffritto con la pancetta fai, ci metti la cipolla e fai soffritto tutto assieme. E poi condisci, sì, vabbè, la prassi è quella, l'uovo, ci metti il pane grattugiato, lo giri bene, il pane grattugiato, il formaggio grattugiato. Buono, però un'altra volta l'aria ha detto, roba, l'ho mangiata a casa di una mia collega, la mamma l'ha fatta con le fettuccine, quelle fini, ma l'ha provata, ti dico, una squisitezza. Più impegno ci vuole perché sono più grandi, però buona, buona. Marco, tu cosa stai mangiando? Ghiaia, perché tu mangi tutto. Un pezzettino di panettone come dolce. Ah, che dolce. Ti sto mandando la foto del computer che ho rimesso a posto pochi giorni fa. È quello che ha XP. Lo schermo è un vecchio tubo catodico che ho sempre, non ho mai cambiato. Invece l'altro, il portatile, è sempre di quegli anni, è lo stesso XP, però l'ho tolto dalla foto perché sennò o metti l'uno o metti l'altro. Adesso i computer li fanno tutti neri, i tower neri, questi sono ancora beige, come li facevano all'inizio degli anni 2000, mi guarda la foto. Ma io cosa mi dai per uno schermo trappiato di PC, da 17 pollici? No, no, non va bene. Non va bene già, cambiando computer metterò uno schermo 16 non in Full HD, quelli stretti e larghi, mi. Questo è ancora, addirittura questo è un 4 terzi, questo è del, no, quello del 2000 mi si è bruciato, e dopo il 2000 l'avevo comprato questo, tipo 2003 giù di lì. E questo qua è largo e stretto e c'è la scheda video incorporata, il coso, il monitor. C'è la scheda video, ah, nel monitor hai gli altoparlanti. C'è la scheda video, sì, è incorporata. No, è bello. Solo che quello, diciamo, lo sto eliminando, quello fisso, perché c'è il portatile, il cameriere, il camera da letto, quindi non me ne ha fatto più nulla di quello fisso, non lo uso mai me. E io sono me, ho preso il numero, se avete ricordato domani devo cercare il computer grande, e domani mattina l'edicola, passandolo faccio la ricarica. Ok, va bene, va bene. Certo che questi due che ho io sono tutti e due obsoleti, c'hanno XP, sono del 2004-2005, quindi no. È così un po' lenti a navigare, un po', però è Vabbè, non l'hai vista la foto, Claudio? No, non è arrivata. Anzi, manco quando sia arrivata adesso, adesso la guardo. No, la mia del 2015. Nuovo, nuovo, l'ho comprato 2 anni fa. L'ho fatto a Vele Luca, Lenovo. Una bella scheggia, funziona benissimo. Non l'altro è rompato. Parte ancora da scaricare tutta la roba c'è dentro, caricarla in quello nuovo, ma no, non me la fotti nulla, lascio stare così. Aspetta, mi guardo la foto, e prendi già. Aspetta, ecco che sto ricevendo un messaggio. Ehi, Gianfranco, ci sei ancora? Sono degli anni 30. Oh, cazzo di treno. Ehi, dai, questi 2004-2005, perché adesso come li vedi i computer? Cazzo, ti faccio una foto del mio, scusa, c'è un monitor schermo piatto di quelli ultima generazione, cristalli liquidi, tutto, sempre tutto Lenovo, tastiera per Lenovo, nera. Era il mio tutto. Tu mi fai il computer della circoscrizione di Noga di Carbonazzi. Lo so, però vedi, almeno sono riuscito. Poi c'è il computer portatile che è grigio di colore, un grigio ferro, capito? E sono tutte e due con XP, quindi sono molto arretrati. Sono indietro di numerosi sistemi operativi. Lo so, adesso sono tutti neri. Tutti neri, i tower sono tutti neri. Gianfranco, ci sei? Certo, ci sono. Certo, chi è, dove, quando, perché? Ho notato che quei computer che mi avevi segnalato, no? Quelli di eBay assemblati. Vabbè, assemblati però... non erano proprio ultramoderni. Per esempio le schede RAM erano ancora DDR3, quando ormai va la grande DDR4. E avevano tutti, dico anche più cari, la scheda, tranne rari casi, la scheda video integrata. Non usava schede video aggiunte, tipo Radeon e Shafir, usavano la scheda video integrata, che magari sarà anche buonina, ma... Vabbè, scheda ben integrata, scheda audio integrata, così sono rimasto un po' così, credevo meglio. Beh, tu di parlare cosa intendi per scheda video? Tu sei fissato, ho visto che c'è una certa fissazione, ma devi fare videogiochi di ultima generazione, tutto ragazzino. No, no, non gioco proprio, non gioco, però, sai, vorrei che avessi almeno una scheda video che abbia una sua memoria, insomma, una DDR4 di RAM. Natalino mi ha detto che sono un po' base quei computer, tranne qualcuno che costa 500-600 euro, lui mi ha detto di partire da una RAM DDR4. Per essere un po' più al passo dei tempi. Beh, ma quello è ovvio, tu vuoi, era la tua piena e la moglie d'imbriaca, come si dice, no? E la memoria e i componenti che costa abbastanza caro, la DR4, quindi te ne metti e ti costa anche la macchina. Questo discorso vale anche per tipo di hard disk. Altre cose, però siamo sempre lì, capito? Il punto è cosa ci devi fare col PC. Vabbè, voglio che aggiornandolo a uno o due sistemi operativi futuri sia ancora aggiornato, tutto lì. Va bene. Mi ha fatto ridere Claudio, dice sempre il computer della circoscrizione del comune. Ma guarda, io c'ho un 4 che c'ha oramai un po' d'anni alle spalle, anche un bel po' di anni. Prima ci aveva, è nato col 7 e adesso c'ha 10 e va benissimo così. Guarda, mi piacerebbe partire da un processore Intel i3 RAM DDR4, qualche scheda USB 3.0, qualcuna 2.0, perché lì le schede tutte spesso erano 2.0 ancora, sì, obsolete come le mie. Vabbè dai, ma non è per adesso. Claudio, ci sei? Sì, sì, vi sto ascoltando, vai, vai, sul qua, sul qua. Sì, mi hai fatto dire quando hai detto che sembra il computer della circoscrizione degli anni 30. Oh, sai, c'hanno quelli beige, Gianfranco, tutto, tastiera beige, sono giornalino, mi sono più sui tastieri. Il monitor ancora di quelli a coso, a tubo cattolico, e quindi mi hai ricordato, no, questa unità così a fianco al monitor a tubo cattolico, mi hai ricordato la circoscrizione qua di Carbonazzi, ma quando vai a fare il certificato vai ancora che c'è un computer, capite? Lo so, ma lo sai, io ce l'ho una tastiera nera per computer, no, ma non mi ci trovo, mi piace più la tastiera chiara con i caratteri scuri, invece il bianco sullo scuro non mi ci trovo tanto bene, per esempio il portatile c'ha caratteri chiari sullo scuro, non mi piacciono tanto. E purtroppo lo so, adesso fanno tutto nero, le casse nere, il tower nero, tastiera nera, mouse nero, tutto nero. E vabbè, cosa vuoi ti dica? Una volta erano tutti così, in quegli anni si usavano così beige, solo su richiesta te lo davano nero, grigio, altri colori. Sì, sì, sì, ma già l'ho avuto anch'io quello. Ho iniziato così lo stesso io, lo baviccio. Poi, ma il mio era il case, tutto LG, perché il sistema operativo era abbastanza buono, poi si è inceppato, non so perché, infatti volevo sempre dare a Luca per toglierne tutto e caricare, c'è tutto il log, tutti i collegamenti fatti, eccetera, eccetera, e caricare tutto e metterlo su quello nuovo, ma no. Mi dimentico sempre di portarglielo, poi sinceramente parlando, ma che me ne fottanza, non mi interessa molto, capite? E quindi è lì. Però anche quello è nero, anche quello lì è nero. Avanti Gianfra. Sì, che poi di PC ce ne sono, dalle PC medio anche a HP ce ne sono intorno alle 400 euro, 300. 104, poi dipende da quello che vuoi, sono sempre ricco, ma quello che devi fare? Sono tutti un Windows 10 e vanno, l'importante è che sia attaccato al sistema operativo, se no ti potrà metterne uno, diciamo, col seriale in quella maniera, che va bene lo stesso, non è più come una volta. Però, insomma, nel complesso io, per quello che devi fare tu, penso che ti basta anche una vittoria manovella che danno da un bambino per cioccare, guarda. Addirittura. No, sempre navigare, guardare foto, guardare video su YouTube, roba normale, però voglio che lo faccia velocemente. Te l'ho detto, che sia ancora aggiornabile quando uscirà uno o due sistemi operativi in futuri, capito? Perché sempre il sistema operativo appena esce si mangia sempre più RAM, sempre più cioè i requisiti del sistema sono sempre maggiori ogni sistema operativo che esce, capito? E vorrei che fosse aggiornabile quando uscirà quello che sarà, Windows 11, 12, non lo so. Comunque già non è per adesso che i soldi non ne ho da parte, dai. Sono tutte segmentali. E questo l'avevamo capito, a me è venuta questa cosa. Quindi l'avevamo capito tutti. Che era tra l'altro, adesso stanno usando... Anche noi abbiamo molto installato molti PC... Sono piccoli, sono dei quadrati praticamente, c'hanno tutto, anche UAT incorporato, l'antenna, sono della IBM credo, IBM Lenovo, perché piano piano stanno sparendo i case grandi, no? E ci sono queste scatole piccole, che comunque sono abbastanza potenti come PC. Li ho visti, guarda, ho visto questi cubi, diciamo che erano dei cubi un po' schiacciati, no? Non molto alti, Ed erano proprio dei case per computer, non so se da ufficio, no? Abbastanza piccoletti, dai. Ho visto qualcosa, Eia. Vabbè, magari miniaturizzando tutto si diventeranno sempre più piccoli. Però poi a metterci le mani dentro, mamma mia, col microscopio ci devi andare, eh? No, stanno via. I ricambi ci sono, però ma non si sfasciano, sfascia sempre l'alimentatore, cioè. Certo che avere il tubo catodico è il colmo, Il colmo, però questo è un 4 terzi, no? La mia scheda video non so se riesca a gestire uno schermo 16 noni. Avevo anche un 4 terzi LCD, però l'ho ceduto a mia zia, l'ho venduto a mia zia, perché si era stufata che spostando tutto il mobiletto con le rotelle, no, diceva il tubo catodico pesava, e io gliel'ho dato, visto che io tanto lo devo lasciare sempre fisso lì, non devo stare a portarmelo per la stanza. Bene, bene, bene. Che altro c'è rimasto qua? Gianni c'è ancora? Io le stiamo leggendo su WhatsApp. Certo lui. Certo lui, perché tu non puoi fare. Io, alle 8.05 sono. Anche oggi è andata. Stamattina avevo appuntamento in banca. Piazza d'Italia alle 10:15. Cazzo, non sono uscito alle 11:30. Alle 10:30. Speriamo di aver finito, ho fatto tutta la pratica per quella dell'Inps da inserire per la crescita della pressione, appunto a gennaio, sono un'ora e mezza firmando carte, questa computer, scaricando, facendo, inserendo, che non ne comprendiamo accidenti, ogni tanto andava in ufficio al direttore a dire come doveva fare, mi si è inceppato due volte sul computer, mamma mia, non ce la facevo più, ho un caldo in quel posto, cazzo, non si poteva stare. Mamma mia, dipende che banca è, da noi è molto tranquilla, a Monte dei Paschi ci sono sempre quattro gatti, una banchetta così è. Invece una volta che ho incassato un assegno alla Banca Nazionale del Lavoro c'era una fila di centinaia di persone, una roba di 130 persone, un caos era, un caos, potevi tornare anche ore e ore dopo, era sempre pieno e non arrivava mai al turno, un incubo è stato. Io ho la banca intesa, Piazza d'Italia, poi faccio tutte le operazioni qua anche a Carlo Felice, ma le cose che mi servono devo andare lì per forza, ma non ero lo sportello, no, proprio dall'altra parte, dove sono gli uffici, ero su al secondo piano, mi sembra, questo ufficio che fa queste cose, capito? E quindi un caldo in questo ufficio, cazzo, minimo qui c'è mai, ci non vede 27 gradi, infatti mi vedevo ogni tanto, facevo così, metto non deve avere fretta perché se no dobbiamo caricare tutti i beni dati, perché altrimenti poi l'Ipsi ce li respinge qui e là. Sì, ma ero a dire, no, io fretta non ne ho, non devo andare a lavorare, non c'ho bambini piccoli. Era un gatto che mi ammazzende, poi non gliel'ho detto per correttezza. Allucinante, ogni aggascio, mamma mia, vai Gianfra. Io ci so. Sì, avanti che hai abbussato. Vai, riprendi già. Guarda, ci sono finito, dai, finito. Tra una chattata e l'altra vi rispondo. Canta, dai, parla, di qualche cosa. Cosa vuoi che dici? Troviamoci per la prima di Natale. Stavamo organizzando con Stefano, almeno per farci una bevuta, visto che questa pizzata è andata in fumo. Almeno per farci una bevuta e salutarci, farci gli auguri. Non è andata in fumo la pizzata, assolutamente. Perché io non sono stato bene in quelle due settimane che ma con Stefano mi sono visto due volte a prendere il caffè di mattina, perché adesso sono a casa, quindi lui è rientrato e ci vediamo. Non è un problema, prendere un caffè cioè, capito? Vogliamo farla, facciamola, oggi cos'è, lunedì, cos'è, 18, 19 martedì, 20 mercoledì, 21 giovedì, 22 venerdì, si può fare, se volete farla una pizzata, giusto così per stare in compagnia, fine settimana, metà settimana, non so, decidete voi, per me non c'è un problema. Quindi, perché se poi viene Natale, mangi come un coso e poi non hai gara di fare pizzate? Almeno per una bevuta già ci vediamo, dai. Se tu non vuoi bere alcolici, bevi un caffè, bevi qualsiasi cosa, ti prendo un bicchiere d'acqua minerale. No, poi mi sono dimenticato, ma voglio mai provo che chiudo con domani. Domani chiudo l'antibiotico. No, già sono stato mal male. Facciamo di nuovo un bella gola, sai che ho avuto un problema grosso alla gola e stavo tenendo di nuovo. Queste placche belle rosse e quindi mi ricordo appunto stavo fumando niente, dava fastidio anche a deglutire, perciò ero veramente preoccupato, era un po' giù di morale, capito? Adesso mi è passato, placche non ne ho più, infatti domani termino antibiotico e basta, non prendo più niente. La voce sembra che si stia schiarendo di nuovo, ma i giorni scorsi era un bel rauco, ma senza tosse, senza niente, proprio mi si è abbassata la voce, quindi sai, le corde vocali per me sono tutto, e quindi ero un po' preoccupato. Marcolino, riprendi. Ehi, già, non ti sei perso niente, stavamo parlando di computer, eccetera. Mi ha preso in giro, sembrava, Claudio ha detto che sembrava il computer del comune, quelli color beige, me. Sì, c'è detto tutto, io l'ascolto, mentre chattavo ascoltavo, già sentito tutto, sì. Poi Claudio ha detto che sembrava il computer che usano nella circoscrizione vicino a casa sua. Io lo avevo quello lì con XP, poi gli ho dato in chiesa a Natalino, si è preso il pezzo che si doveva prendere, era questo che vabbè, era un bussoletto, però ho preso ultimamente, avevo preso il monitor con praticamente la scheda video e puoi vedere anche il televisore, capito? Leia, sì, fa da monitor alla televisione. Esatto. E vabbè, sono con l'antennino particolare, non so cosa vivo io, non l'ho mai usato come televisore, però Manuela si guardava il film per dire. Leia, i monitor moderni non li capisco, adesso hanno tre prese, certi. La presa classica, la DVI e l'HDMI, dipende dal modello. Uff, che paranoia, guarda. Vabbè, per adesso mi tengo questi, quando esplodono vuol dire che me lo cambierò quando potrò. No, io non lo so cosa mi regala Natale, ma so proprio cosa mi regala. Io già ho fatto, già quest'anno l'unico anno che non compro il radio, però mi faccio un viaggio. Già non lo stavi accennando, mi ha fatto bene, così è un diversivo, dai. Stai sempre a fare le stesse cose. No, intanto cos'è? Ogni anno la radio, ma tutto ciò l'altro c'è Mugarelli, tutto cos'è. Quindi non che stanno funzionando, sono il 430 e il 440, basta. E il baracchino, il 3009, se per stare. L'altro è tutto spento, non mi interessa più niente, c'è. Comunque, c'è già un po' di buro dopo di nato. Adesso già va bene così. E questa scritta che appassa? No, adesso mi sta dando 11 martedì Sassari, 11 gradi domani, 2 in più rispetto a lunedì, e torna nuvoloso. Ascolta, qua, cambiano le scosse, Filippo dove lo lasci quando fai il viaggio? Con lui viene. Ah, lo porti? Sì. In mezzo alla rete, guarda. No, vabbè, lì c'è questo albergo, lì ce ne ho un bel cani, che aspetta, non ho dato le foto, bellissime, mia figlia, c'è tipo un dog sitter, si occupa proprio dei cani piccolini, sai, che va lì, non l'hai mai visto in televisione, c'hanno questi cani piccolini, questi yorkshire, questi barboncini, capito? Ci sono un sacco di cani, così mette mia figlia, quindi lo portiamo, non lo lascio qua, assolutamente. Già, abbiamo già parlato, se ce l'hai lo devi tenere, se no non fa. C'è un ragazzo qua, io mi che abita nel mio palazzo, che fa proprio il dog sitter, capito? Porta, tiene i cani, va a prendere. L'altro giorno, che quando parlo ancora la gola mi fa male, l'altro giorno che io non potevo uscire, mia figlia era a lavoro, mia moglie non ne aveva voglia, le ho telefonate, è venuto, l'ha preso, un'oretta, capito? Gli ho dato 5 euro, no, non c'è problema, 5 euro ora prende, quindi me l'ha chiesto, mi ha detto se non c'è problemi me lo lascia a me a Filippo, intanto lo conosce, ci gioca sempre con lui, non si preoccupa, però sono 5 giorni, capito? Non fa, sto preoccupato. Non me ne ha fatto nulla, anche se avevo 100 euro, già mi interessa. Non mi interessa niente, non è quello il problema, è che sto preoccupato io, capito? Sto sempre al telefono, Filippo, come sta? A parte il fatto che fino a quando lo tiene lui, come è successo, un'ora, due ore, va bene. Ma se non mi vede, non ci vede a noi per 4-5 giorni, lui non mangia più quel cane, No. E mi costa, ha già mai costa più edo che noi. Allora, devi pagare anche la pensione adesso. Cosa già? Ho detto, ne dovrai pagare anche la pensione adesso. Sì, c'è una pensione per cani, ti sto dicendo, uno chalet, come lo chiami? Proprio adatto per i cani lì a Fortina, capito? Ho capito. Vabbè, almeno ce la mette con voi, siete più tranquilli. Cosa già? Cosa viaggiate? In nave o in aereo? No, in altro aereo andiamo. E poi vengono a prenderci lì delle... questa... il coso, dai. Il pulmino dell'albergo. A fare la fece la navetta del coso, dell'albergo? Sì, era una navetta tipo fuori strada. Perché c'è un po' di neve? C'è un berinese, hai capito? No, è macchina. Ho già le mani a piedi, non ho io macchina. Se avessi avuto la macchina avevo prima, l'Audi a trazione integrale, sarei anche altro in macchina, ma con quello parlo, 197. A Volturamme? No, assolutamente. Già, il biglietto per il cane mi è costato il doppio di quanto costa il mio in aereo. Davvero? No. Prova a far viaggiare un cane come il tuo, il mio, di quelle dimensioni. Cagnolino piccolino del bamboo shaker, capito? Ma giù nelle cose dei cani e dei aerei sono, sai, le cose per i cani, gatti, l'ho separato. Ma è una cosa. Mi è costato 100, quasi 200 euro. Perché avevi di là, i viaggi non sono mai rimpianti, dai, non si fanno per piacere. No, ma infatti non me ne frega niente, già ma figurati, ci stiamo anche pensando a quello, e te lo sto dicendo perché costa, però non lo sento, poi l'aria, Mario lo stesso, no, poi c'è Mario, quindi è molto, è anche più tranquillo il cane. C'è una volta un milione, un chihuahua, quanti già? Mi dici minoretti, me lo pongo in busciacca. E mai l'ho preso a canale, ci porta. Sì, così mi vuole un coso. Ti mando, quando viene l'aria, me la faccio mandare a me, te la mando. Perché quello più che un pazzo non è, capito? Non è un pazzo. Si è preso il pastore dell'Asia. Tu, allora, immaginate che c'ha 6 mesi, lei due volte di Filippo, c'ha le zampe due volte di Filippo, la testa due volte di Filippo, 6 mesi, cioè, 6 mesi. Ma che cos'è un osso questo pastore dell'Asia? Non l'ho mai visto. Un osso? È più in mano dello San Bernardo. Allora, Lui ne ha due adesso. Sì, io non ne ha tre, c'è anche il bulldoggio francese, quello sta a casa però, gli altri due stanno giù, in garage, capisci, un garage grandissimo, dove metterò, la mamma c'ha un'azienda di pulizie, c'ha due furgoni, due, un Deli e uno Scudo, quindi ci hanno fondati anche i furgoni dentro, un garage grande. Stanno tutte due lì perché se non si possono portare, ma c'hanno tutto dentro, ben attrezzato per tenere il cane, piumoni rossi, tutto. Adesso l'altro giorno ho detto avevo ragione signor Cla, avevo ragione, cioè dai, uno che pesa 70 kg, altri 2 metri, okay, no, ma lui la va da solo, lui invece ancora non si è abituato, come per tenere guinzaglio, ma tira come un dannato, dito dai, l'ho giudito io, avanti ai due, il compare già di un altro, lui ci sono tre. Sono come questi figlioli, da un bullone di nata, ma si ricane, non è così. Tu non hai idea di, guarda, lascia perdere, i soldi che spende Mario per i cani, no, non ci puoi neanche pensare, lascia perdere, però lui è amante, lui la cosa sua è di fare il canile a livello internazionale, a livello quindi dove lui collabora molto, la settimana scorsa no. Oggi è partito e io, oggi è 18, lunedì, oggi è partito a Milano, e c'è una manifestazione dove lui appunto fa parte, sempre una manifestazione canina, capito? Quindi la sua cosa è fare quello e avere allevamento di cani, ma cani d'alta quota, chiamiamoli così, cani costosi, capito? Cani costosi. Perché questo l'ha preso adesso e voleva prendere il pastore del Caucaso, che è ancora più teccio, capito? Però poi no, prendo quello dell'Asia. Già, è una cosa spettacolare, ti faccio la foto quando viene mia figlia. È una cosa spettacolare da vedere. Vabbè, bianco, bianco, sembra un orso bianco. Tu avrai presente un orso bianco, uscie. Aspetta, vado a vedere. Tu guardalo grande, non più piccolo, e mamma mia quanto è bello. Mi piacerà vederlo già le foto grandi, a me da ogni aggane, una cosa allucinante, mi ha vestioni, per carità. Vai Marcolini, vabbè, tu sei appassionato di gatti. Come si chiama, hai detto, pastore dell'Asia? Eia, così mi ha detto. Marcolino è un cuoco, ma ne... Ben svegliato, Natalino. Ah, Claudio, sai che ho conosciuto oggi per caso una persona, la moglie di Intrepido mi ha detto che era. Ho visto un ragazzo e una ragazza, il ragazzo modulava 30 anni fa, no? E credo che questa donna fosse la madre della ragazza, un po' grande, no? Ha detto, noi ci siamo conosciuti 30 anni fa, ho detto, col baracchino, dice, ah, il baracchino, dice, io sono la moglie di Intrepido, che non c'è più, capito? Però non mi ricordo, Intrepido, com'era il nome? Luce del Martino. Ehi, scusa che mi stava chiamando Filippo, capito? Ha capito Marco che era quella che parlava, diceva tutti da come c'è. Luce del Martino, non l'hai mai sentito? Perché lei era? Ma io mi pare di averla vista Luce del Martino, ma non me la ricordavo così. Non me la ricordavo, questa era abbastanza alta come signora. Non lo so, ho capito male io. Ma Luce non era la moglie di Intrepido? Esatto, sì. Niente, vabbè, ragazzi. Come passa la voce, bella, basta, tutto lì. Era la voce, era città, prega. Avanti, break. Chi è? Avanti, chi è? Sì, se ti ho risposto ti sento. Sì, ti sento. Chi sei? Ciao Fabio, mi hai sentito. Da dove moduli? Dove? Mario è bassissimo. Cosa c'è? Portati. Arrivi molto basso, ti ascolto io perché sono vicino, non so se gli altri mi ascoltano. Vai Claudio, lo senti l'amico da veloce? Guarda, mo ve lo smitter da zero perché non c'ho manco un filo del QRM a segnale 1, però lavoro. voce molto bassa. Non arriva, diciamo, qua. Muove lo Smith, però no, la voce non la sento. Permetterti, che apparecchio stai usando? Intec. Se ci può attaccare l'antenna, ti conviene mettere l'antenna, un'antenna, diciamo, fuori, oppure sul tetto. Sul tetto ce l'hai. Guarda, io abitolando nel mio appartamento ti sento basso, ma te non ce lo occupi sempre fortissimo. È strano che... forse sei da qualche altra parte. No, sapri, ti sento molto basso di radio. Solitamente gli apparecchi escono meglio con delle antenne esterne, non con l'antenna del suo, oppure ti fa una stazione come si deve, ti compri un apparecchio da stazione base, ti metti l'antenna sul tetto e già puoi parlare tranquillamente con tutto. Quanti canali è quel Intec? 10 canali. E di quando è questo baracchino? Ah, e chi era il tuo nonno? Ma Mario Mao. Ah, non te lo ricordi? Ho capito. Vabbè, dai, facciamo girare. Avanti, va. Sì, io non lo sento. Sì, ho visto le foto del cane. Caspita, è grande, più di un uomo questo. C'è uno che lo porta a fianco e gli arriva alla schiena del cane più alta della cintura, figurati. Sembra il cugino grande del San Bernardo. È bello, Marco. No, questo è bianco, bianco, proprio bianco, bianco, bianco. È un orso, Mario. Mamma mia. Sono anche cattivi come razza, però Mario ha detto che già è buono, non ci sono problemi. Vediamo se è buono. Fatti giù, aftashem. A me già mi basta a pipito. Ma non ho capito già, non si ricorda, l'hai fatto la domanda chi era tuo nonno, non si ricorda chi è il nonno, così. Sì, adesso si chiamava Mario, ma non si ricorda il nome attivo. Se è Mario, se è il nonno, sarà Mario Mao. No, glielo ho chiesto, ha detto di no. Mario, CB, Mario, non so. Vabbè. Qua proprio muove lo smitter, però non si capisce la modulazione. Magari se avessi avuto un microfono più amplificato, non avrei capito lo stesso. Beh, qua, ma è perché non riprendi? Ti ha mangiato, Natalia? No, non mi sento bene. Mi fini ancora oggi, antibiotico, domani, poi finito. Ascolta, il segnale perché è di nuovo così basso? Santi a Rosetti, Sidor. Questi PL, questi spezzoni. Nuovo Santiago 7, sì, magari Marco non se ne accorge, o Gianni, perché sei più vicino, ma qua il tuo segnale 9.5 è a bassa potenza, quando sollevi vai leggermente a 9.10, quando vuoi la manetta sei 9.30, quindi il riferimento mio è quello, sì, Santiago 7. Non ho guardato la verità, comunque pastore dell'Asia centrale, bella bestia, è enorme, per chissà quanto mangia. Vabbè, Natali, vieni avanti. Ti sto dicendo, Marco, che già l'altro che ha il presa canario mangia mezzo chilo di mangime al giorno, ok, di crocchette al giorno. Quello è buono, perché Mario non va da spesso, ok, mezzo chilo a pranzo e mezzo chilo a cena, un chilo di mangime al giorno, cosa che Filippo ne mangia 120 grammi a pranzo e 120 grammi a cena, capito? Quindi immagina già di due, un chilo via di mangime, vanno a due, che dovrebbero essere 2 chili al giorno, fatelo un conto, cosa vuoi mantenere il tipo di cane che ho messo. Marco, guarda un po', positivi. Vabbè, lui farà le gare, quelle cose lì, però mamma mia. Per me sarebbe un incubo, vabbè, lui è la passione, quindi. Ma non trovo più la foto adesso. Sì, ma già la conosco, la mando la Gianni, se la trovo. Sì, pastore dell'Asia centrale. È così, vabbè. Riprendi, Natali, hai toccato qualcosa? Guarda un po', faccio stazionari eppure. Sì, adesso sì, 9 più 20. 9 più 20 adesso so. Sempre con un watt. Boh. Sì, Natali, sì, 9, 10 il tuo segnale, quando parli vai quasi a 20, 18. Capite, dei picchi allucinanti. Mentre Santiago 7 di portante mutta, quasi 9 modulata, quindi è sempre quel difetto, e così è. Ah, che spezzone di Vassi. Adesso sei tu bello bello, adesso sei bello pimpante. Vai già, qualcosa stavi dicendo? Sì, stavo dicendo che l'ho visto, ne ho visto uno pezzato però, non bianco. Sì, sì, sono pezzati tipo San Bernardo, capito? Così, marroncino, eccetera, eccetera. Poi ci sono anche bianchi, bianchi. Ma è già, mamma mia, mi agganga, mamma mia, mi agganga. Infatti, Michael, con l'altro, no, non hanno fatto subito, che sono tutti e due maschi, hanno fatto subito amicizia, per un periodo, insomma, si guardavano così, però hanno fatto amicizia subito, manco male. Perché non si è preso la femmina dell'altro e faceva l'allevamento dell'impresa Carano? No, già, è molto più impegnativa la femmina di quel cane. No, Mario con le femmine non ci va molto d'accordo, con i maschi sì, capito. Mi ha mandato la foto, Marco, ci aveva mia bambina. Te la giro già, te la giro, guarda questa cosa. Gliel'ho mandata, Gianni, guarda. Ma l'hai visto quanto è grande? Fisicamente, anche rispetto al torace dell'uomo. Io dico che se quel cane prende una persona, la disintegra proprio, la disintegra. Ho detto che è un osso, cazzo, questo è già, mi pare mezzo sporco, ma quello là è molto più bianco. Un osso, ho detto che uno dritto così sembra un osso, pesa non so quanto, ma mi sembra che il peso sia più o meno come l'altro, come il presa canario, ma è più grande del presa canario, è allucinante. Se si vuole dire che è un orso, a lui piacciono questi cani così. Questo è il pastore dell'Asia centrale, ogni a capo, ogni a zampa, si buccia. Se lo vedi dal vivo fa paura, c'ha 6 mesi e 2 volte di Filippo. Mamma mia, c'è la fa impressione a vederlo. Quello è un uomo, caspita, questo in piedi è alto quanto lui e più di lui. C'ha delle zampe impressionanti. Poi il torace è grosso anche. Mamma mia. Sì, questo non è un bianco bianco, è un bianco sporco, capito? Tenete un po' il pesce così. Zogudizendi, c'era il pastore tedesco mio che quando si metteva in piedi era più alto di me. Figurati quelli cosa sono. Io me lo ricordo il tuo, lo stesso, un bel bestione, no, ma questi sono nata lì. Io la voto impressionante. E poi se la giovita mi gioca sul capo. Tu non ti puoi avvicinare neanche alla porta del garage. Come ti avvicini alla porta del garage partono tutti e due assieme, mi ha detto. Siccome a volte si fermano lì a fumare. No. C'è cosa reda si entra anche sul garage. Ciu. Immagina che se un ladro tenta di entrare si trova quel cane davanti. No, li sente subito perché si avvicinano e abbaiano. Già dall'abbaiare senti cosa c'è dentro, ma stai scherzando. Poi dentro è tutto pieno di attrezzatura, per quello l'altro rimaneva lì, capito? Non ti faceva avvicinare manco la serranda, nulla. Infatti lo sanno tutti che c'è il cane dentro. Mai si sono avvicinati, ci sono i mezzi, c'è tutta l'attrezzatura da lavoro, capite, c'è la moto di Mario, e ve ne è roba che viene dentro. Quindi adesso sarà in due, ti vedi ancora più male. No, ma c'è tutte le finestre in giro con tutte le gratte, le finestre praticamente sono sempre aperte, capito? Per circolare l'aria, no, è bene organizzato, c'è dell'attrezzatura dentro, stanno, c'è quelli di caldo, stanno bene. Grande garage, è un bel grande, quindi loro camminano tranquillamente, si muovono, non c'è problema, tutti i santi giorni, la mattina presto, prima del lavoro, Mario scende, li porta, le cambia l'acqua, le mette già le ciotole piene per mangiare, poi quando rientra alle 2 la stessa cosa, poi la sera, prima di cena, ciupa. Io dico che se apre la bocca, se c'è un chihuahua, apre la bocca, lo ingurgita vivo, capito? Lo ingoia vivo. Mamma, è impressionante. Ho detto che ha 6 mesi, ok? È più grande di Filippo, mio Filippo è grosso, è il doppio di Filippo è nata lì. E va sei mesi, Filippo c'ha 5 anni. E vabbè, è sarrazza, Demonio, mamma mia quanto è grande, per carità di Dio, fate appropriato con la bestina. E se no non li è costato. Un pazzo. Non voglio nemmeno sapere il prezzo, guarda. E gli è costato 2200 euro, te lo dico io il prezzo, che con quei 2200 euro avrebbe fatto altro, siccome è un pazzo, io non sono un babbo, è manno, capito, c'ha più di 30 anni, quindi verrà lui. Veglia, ma lui li userà poi per farli riprodurre, no? Cioè penso che sia un investimento anche, non è che li compra e le lascia così, no? Le gare fa, le mostre fa, capito, le mostre fa, non è che ce ne siano molti, a Sassa non ce ne manca uno, pastore dell'Asia centrale, come ci ha detto lui è esperto, lui, è nel settore, io non mi gioco. Per me se mi diceva che era un pastore maremmano, ho detto bello, io non comprendo nulla di gare. Capito? Fa le mostre lui, no? Però ho detto, stamattina è partito a Milano, rientra dopo domani, perché c'è una manifestazione, lui fa parte di questo comitato, di questa cosa di mostre canine, di gare, di capito, sta in giuria, e quindi, capito? Infatti l'ha portato da lì, li hanno portato da lì, l'ha fatto arrivare da lì, da questa associazione che hanno questo corso internazionale di cani, anche l'altro lo stesso l'aveva comprato lì, il mio lo stesso l'ha fatto arrivare da lì, sempre tramite questi, e vabbè contento è, cacchi sui sono, non potesse essere aiuto a me. Gianni non ha risposto, deve essere scioccato dalla foto. No, è un po' di scioccato, senza ombra di dubbio, ma sto pensando che quando ci avrò la famiglia già finita. Sì, ma non ti do torto, cioè, i macchini di rimacchini, di rigani devi passare, così. Ragazzo lavora, se mattino fino a poco fa ci siamo sentiti, era ancora in autolavaggio che stava terminando una macchina grossa che va a consegnare domani, capito? Perché poi c'ha tre concessionarie che le portano le macchine, più quelle che fa lui ai clienti suoi, capito? E c'è l'officina, quindi adesso c'è anche un ragazzo dove cambia olio, pastiglie, cioè lavori piccoli, c'è sempre il ponte impegnato, infatti a me le pastiglie me le ha cambiate Roberto della 600, capito? Roberto meccanico, perché lui non aveva tempo. La porti oggi, la porti domani, abbiamo detto fa la cosa, esci mi a Gudu e l'officina, e l'ho portata da un'altra parte, capito? Perciò è sempre impegnato, ragazzo, lavoro, la verità, però si toglie le soddisfazioni, non mi manca nulla, grazie a Dio. Ha cambiato di nuovo la macchina, ma due anni fa, non l'anno scorso mi pare, forse due anni fa, c'aveva 3,20 BMW, ha preso 3,30, quindi è un ragazzo che lavora, un ragazzo che non, per quello non mi posso lamentare, anzi io immagino da lamentarmi, perché a me non me l'ha fottuta, però mia figlia non ha da che lamentarsi, però spreca troppo denaro in questi cani, gli ho detto, ma bastava uno, Mario. Anzi ne hai già due, perché c'hai due morossi, c'è anche se uno piccolo, il coso, c'è il bulldog francese, e un gioiellino bellissimo, bianco con delle chiazze nere, però sta su a casa perché è piccolino, capito? Più c'hai all'altro grande, giù avanti ne hai pigliato un orso dal bigliato, ma fa cosa? Per me sono soldi buttati, basta uno di cane. Tu c'hai la passione della radio, tu c'hai la passione dei cani, se non ne fai finire adesso le soddisfazioni, dopo quando si guiveggia non se ne può più togliere perché ci avrà speso di altre cose, quindi già fa bene, tanto la vita è una mica, se non te la godi su quello che ti piace sei fregato. No, già, per carità, ci mancherebbe altro. Io stesso sono due mesi già a casa, neanche, un mese e mezzo, e già ho cambiato, non dico tenore di vita, però qualche soddisfazione in più me la sto togliendo. Uno perché hai molto di più, sei più rilassato, non vai al lavoro, quindi sai, ed è vero, quello che non ho fatto mai quando ero più giovane lo farò adesso a vecchiaia. È così, però loro hanno un sacco di cose da fare, L'altro giorno ho messo sulla caldaia hanno speso 6.500 euro, capito? E quindi ci sono un sacco di cose che ancora non hanno finito. Ecco perché io l'altro giorno mi sono adirato, a me mi ascolta moltissimo, la verità, abbiamo un buonissimo rapporto, e mi ha detto però è quella la mia passione. Vabbè, quella è la tua passione, però fatti prima le cose che ti devi fare, e poi se ti avanzano ce li butti, oddio, ho anche sbagliato a dire ce li butti, perché l'acquisto di un cane non è buttato, è una cosa bella, però ho detto poi magari li usi per fare altro, niente così, che cosa vuoi fare, vabbè, pazienza. Per passare sono passione, grazie Giorgio, da più di me. Anche tante volte ho bisicciato con mia moglie per gli apparati, paghisci, ballato, lui, che cosa te ne fai, sono tutti uguali, vanno alla stessa frequenza, in effetti non è che ci avanti tutti, però a me piace avere anche la bella visuale quando modulo, cambiare apparato e via dicendo. Diceva che lo mette in casa quando facevo queste cose, compravo le apparecchie. Poi, se siete mentecatti, siete malati. Si diceva. E allora? Vabbè, ma il radiantismo è un hobby. È un hobby, perché uno deve essere malato? È lei che hobby aveva, per esempio. Hobby però, non lavoro. Al computer. No, ma non è questione di cose di... È perché io ne compravo tanti, sempre, diciamo, della stessa frequenza, capito? E lei diceva, cosa ne fai? Basta uno, cosa ne fai? Intanto parlano gli stessi canali, la stessa frequenza, in effetti non è che affessi tutti i turchi, però a me mi piace anche lui che vuole la sua parte, diceva quello. Ma no, anche mamma me l'ha detto, un ennesimo baracchino, proprio così mi diceva, l'ennesimo baracchino ti sei comprato, e vabbè, se ti piace, però insomma qualcosa me lo diceva, cioè potevo investirli o conservarli meglio ancora i soldi, e purtroppo il baracchino è nuovo, cioè non seguo lo sport, non faccio altro, serve anche a socializzare, a scambiare due parole il baracchino. E vabbè, che te devo dire, i gusti sono gusti, cioè chiama i cani, chiama le radio, vedi, per esempio mia zia non lo capisce, ce l'ha col baracchino e stai sempre a perdere tempo con questo baracchino, capito, viene in casa mia a dirmelo. A parte che non so tutti i giorni, tutto il giorno attaccato al baracchino, perché c'è volte non c'è nessuno. Vedi, non lo può vedere, lei gli hobby degli altri li vuole annullare, non li condivide. L'hobby suo è lavorare, capito? E stare a raccattare i gatti dalla strada, ecco il suo hobby, che c'ha 7 gatti, roba del genere. Prima c'aveva anche 3 cani, capito? L'hobby suo è quello. Non capisce gli obbedi gli altri, e uno che non capisce gli obbedi gli altri non è intelligente, però, perché come fa lei dimostra di avere poca, hai già capito, dai, poca sale in zucca, tutto quello che faccio critica, capito? Solo lei è perfetta, lei è la verità, capito? E infatti ne ho le palle piene quando viene. Perché ci è sfaticato, sempre con questo baracchino, sì. Beh, sfaticato già è vero, però non ci sarà da pigliare al baracchino. Capito? Secondo lui siamo dei perditempo perché siamo a questo baracchino. Dio mio, se potessi aprire bocca io, guarda, è che poi mi disereda. Non puoi. Ma io te l'ho detto, caro Marco, te l'ho sempre detto, le donne sono dei gran rompicoglioni. Sono nate apposta per rompere le balle a noi maschi. Eh beh, c'è un fondo di verità in questo, Natalì, non è solo buffonare. Io ne ho avuto una che mi ha rovinato il carattere, dovevo perdere gli amici, dovevo andare solo dove andava lei. Era un incubo, ecco perché io poi non mi sono voluto rifidanzare. Perché se ne trovo una simile, per me è un incubo, un incubo. Io ne voglio una dal carattere dal buon carattere, che sia moderna, che non si voglia subito sposare come facevano quelle altre terrone con cui mi ero messo, capito? Purtroppo molte pagano i soldi, se non hai soldi non ti considerano nemmeno, capito? È una cosa di cui mi sono accorto, capito? Vedono, ah, non lavori, come dire, ah, allora lascia perdere, capito? E allora, guardano all'interesse perché non c'è altra animale come la donna calcolatrice, perché è una calcolatrice, è nata così, la femmina è nata così, non è venuta di là. Sono nate apposta per rompere le balle a noi maschi. Non me ne vogliono, ma è così. Tu, Marco, cioè, mia figlia quando esce va alla pizzeria al ristorante degli amici. Un'uscita la paga lui, e un'uscita la paga mia figlia, perché grazie a lei mia figlia non manca niente. Ha iniziato a lavorare a 14 anni, ne ha 30, fate un conto. Perciò, capito? Ci organizzano così, non bisticciano, nulla, loro sono già d'accordo. Un'uscita, per dire, escono questo sabato e paga il ragazzo, ok, qualsiasi cosa c'è a pagare. La prossima uscita che fanno, il prossimo sabato, allora paga mia figlia, capito? Devono andare da qualche parte, una volta usano la 147 di mia figlia, il gasolio solo mette mia figlia, ok? La prossima volta dobbiamo andare ad Alghero a mangiare fuori, la macchina tua e il gasolio te lo metti tu, capito? Sono organizzati, non prendi mai di bagaglio. Allora tua figlia è una santa a casa, bisogna metterla sul piedistallo, se non bisticciano mai. Tanto lì deve funzionare così, soprattutto non si lavora. Io quando ero fidanzato, che lavoravo io e lavorava anche mia moglie, non abbiamo mai avuto nessun problema, né di uscire né di pagare. Ci organizzavamo sempre. A volte pagavo lei, a volte pagavo io, non fin da fidanzati, poi chiaramente da sposati è tutto un accumulo, cioè io non lavoro più, quindi anche lei è pensionata, perciò non ci sono problemi. Però quando eravamo fidanzati noi, la verità, mia moglie non mi ha mai rotto le palle, né per comprare le radio, perché già da fidanzati avevo le radio, quindi neanche adesso da sposato, quando ho dovuto comprare una radio, non ho detto manco va. Certo, la solita battuta, ma cosa ne fai, ce l'hai già, però a quei livelli, senza aggiungere altro, capito? Perché se consideriamo una cosa, che adesso io sono a casa, se non avessi avuto il baracchino la sera a fare due chiacchiere, cosa fai? Dimmi cosa fai, o tu che stai a casa, cosa fai? Marco che sta a casa, Gianni un po' meno perché ancora è al lavoro, ma noi tre siamo a casa adesso, cosa facciamo? Cosa voto? Ma vai tu tutta la televisione a farmi luci a tana di grillo? No, ma sto qua, non sto disturbando nessuno, mi faccio due chiacchiere con gli amici e poi me ne vado a cenare e basta, è finita la giornata. Però se stai a casa c'hai questo coso che ti disimpegna un po', insomma passi un po' il tempo, se no cosa avresti fatto tutto il giorno? Già lo so, ma non è solo il coso di pagare, questa qui mi rompe le balle tutto il giorno, e Gianni te lo può dire, mi ci la usa Buddu. Guarda, sulle prime sono tutte sante sante, brave brave, dopo tolgono gli artigli, ma la sorte. No, non ci sarei stati io 40 anni come ci sono con mia moglie, sotto gli artigli, Natali, grazie a Dio. Qualche litigio normale a livello di, come si dice, diversità di idee, ma per il resto procede tutto bene, dai. Su quello non mi posso lamentare, forse ho trovato anche la donna giusta, se mi ti dico, però non tutte sono così naturalmente, hai pienamente ragione. Bene Mera, vai Gianni. Ah, io sto bene. Che bastardo. Aspetta, Flavio. Per come l'hai descritta si capisce che Ilaria è una ragazza moderna, un giorno pago io, un giorno paghi tu. Ma quelle che ho avuto io, quelle, non quella, erano a carico del, capito, l'uomo doveva pagare tutto, non mettevano un centesimo di niente. E oltre a quello, dovevo uscire con gli amici, capito? Perché cominciavano, ah, allora preferisci i tuoi amici a me, capito? Roba del genere. Prepotente l'ultima, anche un po' sboccata, capito? Però quando aveva i soldi si comprava i trucchi, quelle cose là, il trucco per la faccia. Non è che aveva messo mai un soldo per offrirmi un gelato lì, mai, mai, mai. Ed erano tutte così. E se no come faceva a comprarsi le scarpe, i trucchi, tutte queste cose qua? Per le scarpe poi vanno matte. Ne hanno 250.000 paie. Come mamma. Anche le ciabatte. Sì, ma sono casi, capito? Non è che avete pienamente ragione, alla fine è così. Anch'io se ne ho sempre dato, se non ne ho no, non ne ho. Però, ti ripeto, non ho mai avuto problemi di comprare, di fare. Però, dico, c'è sempre un però. Cioè, i limiti te li mettono, perché è così. I limiti te li mettono, capito? Anche per quanto riguarda le sigarette, tra i compatibili te stai ricomprando oggi, ma la giovinetti, la giovinetti mi ha deciso di comprarci o no, o devo andare a domandarli, cioè queste cose te le dicono sempre, te le rifacciano sempre, capito? Però è così, purtroppo è così, no, mia figlia non ha problemi, ma anche le figlie di mio fratello sono così, anche perché lavorano tutte e due, una addirittura è sposata, l'altra è fidanzata, quindi quando c'hai il denaro non stai lì a romperti le scarpe, devi essere organizzato, se sei organizzato stai pur certo che allora funziona tutto bene, ma se l'entrata è una allora inizia sempre la ripicca, capito? Inizia sempre la ripicca, però ti ripeto, mia figlia ha sempre lavorato, quindi i soldi ce li ha, si gestisce lei, c'ha il suo conto, le sue cose, addirittura si gestisce anche la macchina, la grande, non la piccola, la grande, sicuramente se la paga lei, boh, se lo paga lei, io non mi interessa più, io con le macchine ho chiuso, ho la mia piccolina, l'ho tutta sistemata, quindi domani sera devo andare a Roberto che mi deve mettere i prodotti nuovi, sono arrivati, e basta, per me mia moglie va bene quella lì, lei siccome è appassionata di anche lei delle macchine grosse, tieni dire, figlia a dire, adesso ho detto che il prossimo anno, quindi se la cambia, fai quello che ti piace, a me non interessa, basta che non stai a me, perché io solo in macchina non le butto più, basta quello che ho buttato, quello che ho fatto, adesso mi godo questa pensione e me ne sto tranquillo e sereno, senza quindi dire in macchina, in radio soprattutto. Adesso ti faccio un esempio, un giorno ho visto un ragazzo 25enne, no? Che stava guardando le mini moto da Auchan, no? D'altronde anch'io mi ci sono divertito con le mini moto anni addietro, no? Se la voleva pigliare e la ragazza subito dietro, la sua ragazza, cosa cazzo te ne fai? Capito? Così fanno le ragazze, cioè ti devi dedicare solo a loro, non agli amici, agli hobby tuoi, capito? E allora lì è da troncare la cosa. E purtroppo io sono stato sfortunato, ho sempre trovato tipe, poi l'ultima gelosa anche delle amiche, faceva fare figure, se la pigliava anche con le amiche, capito? Quando c'ero io in presenza, per carità. Passa via, come dice Claudio, passa via! Di quanti anni stai parlando? Ma? Allora, lei aveva 27 anni, io ne avevo tipo 3 in più, 30, e io sono un po' da tanto tempo all'asciutto, se posso usare questo termine rozzo, però le temo, perché a seconda di che ti capita, vabbè, se non senti d'altronde, ah? Ma non lo dico perché ci passerei per maschilista. Non ho capito Marco, si è asciutto, quindi non stai facendo bucato, niente. Vabbè, non mi sono messo mai con fisso con nessuna, capito? Qualche ciuffata senza impegno, però per il resto È dura. Ma già c'è me, c'era Gianfranco qua, l'abbiamo un po' lasciato in parcheggio. Già c'è Maria Mano, me. Tanto è pelo di gatto, prima. Lasciamo stare Gianfranco, che stavo guardando al computer. Dai, io invece ho manco cerato ancora. Mia moglie mi ha fatto cenno dal salone che è pronto, quindi vi lascio. Vado a cenare, dai, piacere aver scambiato due chiacchiere. Ciao Natalino, Gianfranco, Gianni, Marco e chiunque fosse in ascolto sul canale 10, dai. Ci sentiamo domani, ragazzi, io spengo tutto. Ceno, TV e poi TV. Intanto mia figlia c'è le 10, quindi lei cena quando rientra. Quindi può essere alzato, può essere a letto. Ciao. Ciao bambino di nonna, ti ci abituanda. Va bene, ciao a tutti di nuovo, dai, buonanotte a te Gianfra, se vuoi riprendere, se no a girare. Ciao ciao. Ciao ciao Claudio, ci sentiamo, dai, riprendi tu mano. Eia, ciao Claudio, ci sentiamo. Vedo che sono le 9. L'ora del film, dai, vediamo cosa c'è in TV, che straccio di film ci sono in TV o programmi. Ciao Natalino, c'è Gianfranco, se ancora all'ascolto, e me ci siamo dimenticati proprio clamorosamente. Ciao Natalino, Gianni, tutti quelli all'ascolto, dai. Ciao Marco, Natalino e tutti gli altri, da Gianfranco, eccetera, eccetera. Quello che ti permetterà, ci sentiamo domani. Ciao Natalino, non ti disperare. Qualche volta ce ne usciamo, Natalino, come vecchi tipi, però ti chiudi il telefono. Della mezz'era. Vabbè, salutoni a tutti, QRT anche per me. Ciao Marco, Claudio, Gianfranco, Gianni e chi altri ci fosse all'ascolto. QRT per me. Mi che ti spara. Tutto. Faccio sparire le cartucce. Va bene, non farti sentire, mi sa no, già lo sai. Bene, ciao a tutti, ciao. A domani, forse, tocchiamo ferro. Se Dio vuole i carabinieri permettono. Ciao, ciao. Oh, oggi mi è sembrato di vedere, me l'ha detto mamma, aspettate un attimo. Ciao a tutti, buonanotte a tutti anche da parte mia, ciao. Ciao, Gianfra, ciao, buonanotte. Ciao, Gianfra. Oggi mi ha detto mamma che sono venuti i carabinieri, come ogni giorno, a controllare quello degli arresti domiciliari, e pare che non l'abbiano trovato. L'hanno bussato, ma non ha risposto nessuno. Adesso lo cercano e lo mandano in galera, direttamente. Se non l'hanno trovato segnano evasione e immediatamente scattano le ricerche. A meno che non stesse dormendo, solo che loro non ci credono se lui gli dice che stava dormendo. No, lo devono vedere proprio e gli fanno firmare il foglio, sennò è evasione. Torna bancali, via, gli revocano gli arresti domiciliari. Peggio per lui. Sta girando un ambiente strano in questo palazzo, capito? C'erano dei ripieni ambiguo. A me mi pare che stanno facendo tipo affitta camere, me. Ecco, ci abbiamo mai. Eia. E dico, ma questi chi sono? Ogni lì ce n'è uno un altro. Io non so chi ci abita qui davanti, per esempio, non so chi ci abita. Non ho capito chi ci abita, perché vedo entrare e uscire amici, boh, non ci sa, meglio non saperlo. Una volta ci abitava una polacca qua, da ha preso la tutta l'appartamento, ma buona, ma una figona, le facevo sempre le battutine, la facevo ridere in ascensore, che cercando di accalappiarla. E qua ha abitato, prima di questi ha abitato una tale Vanessa dos Santos, credo che lavorasse nei locali notturni, che si metteva tutta in gingheri, mamma mia, mezza trasparente con questo pizzo, buona. Ero sempre alla finestra quando passava lì, quindi ciao, ciao, ciao. Vieni a pigliare il caffè, con chi si accusa di dire imbaccavi Marco? Il caffè è macchiato però. Ehi, chi su chi è? Non è il caffè no che conta, quello che esce dopo. Eia, è belluccia, magari di viso, forse non bellissima di viso, ma di corpo. Mamma di turchi. Ma poi è andata via però. Va bene, ciao a tutti, ciao ciao, meglio andare via prima di scantonare, ciao ciao ciao. Anche questa qua è durata un mese e poi se n'è andata. Buonanotte a tutti, dai, abbiamo macinato questo per farci dei bisciuti. Gianni di caldo. Mamma mia. Sto contrattato. Andate. Per non dire l'altro. Non dire altro. Quello che ho detto oggi. No, no, non l'ho detto. Forse non l'ho detto. No, no, io l'ho detto, Gianni duro, e poi ho aggiunto anche Gianni lo scappellato. No, non è quello. Lo chiamavano. Vabbè dai, chiudo, chiudo, sennò scantoniamo davvero. Ciao, ciao, non riprendo. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao, ciao. Ciao.